Drago. Cosa c'è? No, cosa c'è? Sto facendo le cover delle sigle di Radio 24. Questa è una versione free jazz della sigla della Zanzara di Cruciani. Ah, fa sentire. Free jazz, però. Perché l'originale sembra una sigla di Canale 5 quando ancora si chiamava Canale 58. Con Memo Remigi, Lucio Flauto, quella gente lì. Morti tutti. Lucio Flauto. Lucio Flauto? No. No. Lucio Flauto è morto. Non lo so, però Memo Remigi... No. No, non è ancora vivo, forse. Anzi, lo salutiamo, ci sta ascoltando. Ciao Memo! Ciao. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K. E un saluto da Drago. Oh, mercoledì, il giorno dantesco. Come dantesco? Eh sì, Drago. Il mezzo, nel mezzo, il mezzo, com'è? Del cammin di nostra settimana. Ah, vabbè, capisco perfettamente la cosa. Drago, non sai chi è Dante. Ma come non so chi è Dante? Ma sai perché non sai chi è Dante? Perché... Sei ignorante. Vabbè, secondo te io non so chi è Dante. Ma al massimo tu sai chi è Dente. Ma sì, so chi è Dente, è un cantante. Vedi, capito? Che lo sai. Vabbè, ma anche tu lo sai, però ciò non toglie che uno può sapere chi è Dente, sapere chi è Dante allo stesso tempo. A parte che il cantante Dente è meglio toglierselo. È vero, sì, perché sennò tutto. Poi può anche far male. Comunque sì. Tu conosci Dente e Dante allo stesso modo. Eppure Dente mica lo insegnano a scuola. Cosa vuol dire? Cioè, smettila di fare come al solito delle polemiche inutili. Sai come si diceva in Francia nell'Ottocento? Si diceva l'art pour l'art, cioè l'arte per l'arte, così senza altri scopi. Solo per il bello. E tu invece fai la polemique pour la polemique, capito? Ecco. Senza motivo. Tito, diglielo anche tu, Drago. Drago, c'è? È estate, fa caldo, è tempo di vacanza. E dovrebbe dirmelo Tito, lo vedo da solo che è tempo di vacanza, che è caldo e che è estate. Però mi spiace per voi due, ci tocca star qui all'asilo ancora per tanto tempo, quindi preparatevi, state buonini. Ecco, no, tu non devi dire a Tito di star buonino. Perché? E poi ti piscio sulla borsa. Vabbè, ma che sarà mai? Ho detto di star buonino. Cosa vuol dire? Ma Bonino, vedi, è allergico ai toscani. Ma come allergico ai toscani? Perché stare Bonino è un'espressione toscana, no? Toscani, gente. Ma che ne toscani, so, è un'espressione italiana che si può usare, che c'entra però toscana. Tito, se sente anche solo un accenno di toscano, ma no, fa ma cosa vuol dire? Ma senti che casino che fa quando c'è in TV Benigni, per esempio. Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, e la dritta via era smarrita. Hai quanto a dentro lei la cosa d'una, questa selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensiero rinnova la paura. A proposito di Dente, anzi di Dante, questa qui era la Divina Commedia di Dante. Sì. Allora non è poi così vero che... Sei ignorante. Grazie. Però Dente è diverso da Dentes. E chi è Dentes? Claudio Dentes. Vabbè. Ma lo vedi che alla fine invece no, mi ritratto. No, ritratto. Sei ignorante. E ora bambini, ricreazione. Ciao, sentite? Ciao. Sapete che ore sono? Oggi salute. Non lo so adesso. No, cioè, quanto manca l'uscita? Ma è ancora presto, bambino Alberto. Poi che fretta hai oggi? Scusa. No, io devo andare a casa a vedere un film. Perché non ve l'ho detto, sono in preda a alla cinemania. Mica tempo da perdere qui all'asilo. Sì, ma calma, un attimo, no? Ma stai un po' all'aria aperta, dai, perché? Basta. Se non è lo smartphone, ma è la TV. No, TV e cinema non c'entra niente. La passione per il cinema è una passione sana. E che film ti piacciono? Tipo avventura, azione, insomma. I cartoni animati. No, i film dell'orrore. No, ma come film dell'orrore? Specialmente i film dell'orrore con protagonisti i bambini, no? Ma bambino Alberto, ma lascia perdere, non puoi vedere quei film. Oltretutto, la maggior parte di quei film è vietata ai minori, ma quindi. Non sai niente di film dell'orrore. Film qual è l'ultimo film horror che hai visto? Non aprite quella porta. Sì, cos'era del 1968? No, 68, è un spero. È un film d'arcaico. Comunque ha ragione, Drago, guarda che poi dopo ti sogni di notte. Quindi. E poi non dormi, poi hai paura. Ma mi piace? Ma no, perché a me piace vedere avere paura, poi vedere il sangue. Zombie, indemoniati, esorcismi. Ma non ho capito, ma questi film li danno la TV, ma li danno spesso di notte, quindi non capisco. I tuoi ti permettono di stare alzato a guardarli. Ma sei rompivalle. Ma forse è quello che c'ha ragione il K. Ma poi, i miei non sanno niente, no? Io faccio degli scambi. Ho trovato un bambino all'asilo che mi dà i DVD horror di suo padre, no? Sì. In cambio dei miei cartoni, no? Film di animazione. Ieri, per esempio, io gli ho dato Toy Story è riguardato l'esorcista, no? Ci ho fatto l'affarone. Però aspetta, l'esorcista fa paura sul serio. Oh, vedi che. Ma perché? Ma cosa credi? Guardi che allora la scena del vomito, della bambina che vomita verde, lo so già che c'è. E non mica mi spavento per quella roba lì, io, dai. Vabbè, vabbè. Allora. Sì, ma non sono mica quelle le scene più spaventose, quella del vomito ancora, capito? Quando viene giù dalle scale. Vabbè, insomma, ci sono dei film vietati ai minori, quello lì mi sembra fosse vietato ai 18, sì. Una roba dai vecchi. Dei vecchi. C'è anche un motivo per essere vietato ai 18, quindi bambino Alberto lascia perdere questi film, mi sembra di essere un vecchio barbone. Io questo devo ancora vederlo. Vabbè, e quali invece film? Ho già visto, allora, ho visto Il Presagio. Presagio dove c'è un bambino, biondo, no? Sì. Che praticamente è il figlio del diavolo, no? E ha un numero inciso sulla pelle, no? Sì, 666. Ma dai, ma come fai a saperlo? Ma è il numero della bestia, il numero del diavolo, poi l'ho visto il film. Stare lì, lo inciti. Il diavolo. Quindi sto bambino ha dei poteri, no? Poteri sovrumani. Il diavolo. Quindi già lì, nella prima mezz'ora del film, lui con la mente obbliga la babysitter a impiccarsi, no? Ma, al balcone. Ma ti sembra poi col pensiero fa cadere sua madre da una scala, da 10 metri, no? E quindi poi... Vabbè, ma dai, ma come fanno a piacerti queste scene? Non ti fanno paura, non ti urtano, ma voglio dire, ma bambino Alberto... A parte che io, cioè, prima di guardarli, mi imbondisco di Valeriana, no? No, ma... Quindi sono un po' ovattato, no? Come? Vedo e non vedo, capisco, non capisco, no? Comunque funziona, l'ho provato anche con Shining, Shining, bellissimo Shining. Ma vabbè, ma e Shining, anche lì c'è un bambino, è biondo anche lui. Sì. Però il bambino è buono, no? Il cattivo è il papà. Ma sì, che ma... il papà cattivo, no? Che lui ha dei poteri, e il bambino ha dei poteri. Lui ha lo Shining, no? Sì. La luccicanza. Cos'era la luccicanza? Albergo, ma cosa sono queste stupidaggini che dite? La luccicanza. Allora, la luccicanza sarebbe quando Danny, no? Danny. Ma Danny chi è? Ma come chi è? Ma l'hai visto Shining? Ma adesso, Drago, vabbè, allora parlatene voi due. Ma non capisce niente. Io non mi ricordo i film, non me li ricordo mai. Ma come? Bravo. Allora, c'è sto Danny, no? Che vede le cose passate e le cose future, no? Tutte quelle terrificanti, però, tutte quelle brutte. Ma senti che poi vede un ascensore pieno di sangue. Pieno di sangue. L'ho visto quello dell'ascensore. E poi, due bambine. Per forza l'hai visto. No, non è quell'altro, l'ascensore. Chi? Ma che l'ascensore? Quello dell'ascensore, non capo olandese, mi sembra. Questo qui è quello che, lui vede due gemelline. Si immagina tutti vestiti uguali che lo chiamano. Vieni a giocare. Ah, quelli con gli occhi bianchi, ho capito, i bambini che gli vengono. Ah, no, vabbè. No, no, villaggio dei dannati. Vabbè, lasciamo perdere. E lì è la scena che mi fa vedere i brividi. Lì se non prendevo la Valeriana, mi facevo ricoverare. Ma l'hai visto fino alla fine? Cioè fine quando sì, poi sì. Dopo titoli di coda anche. E titoli di coda cosa c'entrano? Beh, la parte fine, prima no? La parte no, prima no. Fa paura no, che arriva no, prima di titoli tutto, di coda poi è saltata la Valeriana. Comunque io ce la faccio. C'è stato solo uno che mi ha dato qualche problema. Orfan. Orfan mai sentito che nominare. Che la protagonista è la bambina bionda che lei ma tu ti turbi perché è una bambina vabbè adesso ma Orfan non l'ho mai visto. Poi già quello è abbastanza scioccante, no? È la bambina protagonista. Comunque questa bambina è come dire orfana, no? E io l'orfanaide è l'orfanaide. Non la regola l'orfanaide, cioè quella lì, voi lo sapete, quello no? È il tuo tallone da killer, diciamo. Poi a un certo punto ho sentito pronunciare la parola orfana. Orfana. Allora immediatamente mi sono svegliato, no? Hai cioè, smaltito? Sono tornato, smaltito tutto, anch'io di Valeriana. E poi ho vomitato, no? Vomitato verde. Ah, verde, come l'esorcista. Ma scappa, ma che schifo. Come l'esorcista. No, è verde come la Valeriana. L'ho mangiato anch'io. E l'insalata. Ma come la mangi la Valeriana? Ma non si beve? Ma io avevo fame, c'avevo anche lì casualmente un goccino d'olio e... Chiedo asilo! Drago, allora ti piace questo disegno? Vedi, col mio smartphone posso fare questi disegni. Adesso io questo disegno... Aia! Drago! Dimmi. Allora, vedi, io adesso faccio col mio smartphone, ho il pennino, e faccio un bellissimo disegno. È uno di quegli smartphone che col si pennino. Può disegnare. Ok, va bene. È uno di quegli smartphone no, che si può capisce. Disegnare, Drago non è italiano. E allora, invece col pennino io sì. Faccio questo bel disegno. Sì. E dopo questo disegno parteciperà a un concorso. A un concorso. I migliori disegni. I migliori disegni, e quindi questo. Sì. Verranno selezionati e tatuati su Corona. Su chi? Su Fabrizio Corona. Ecco, ti leggo, c'è il volantino qua davanti. Allora, concorso arte e genialità. Sì. Testimonial Fabrizio Corona. Così. Tra i 100 disegni, non so, quelli che partecipano, sono scritte, simboli che riceveremo noi, insomma, sì, quelli del concorso. Chi? Fabrizio Corona ne sceglierà uno e se lo tatuerà. Ma dove? Che non c'è spazio, guarda che è tutto tatuato. Beh, insomma, foto. Non vediamo proprio tutto. No, ma secondo me il carrubone è ancora libero. Vabbè, però, insomma, sul carrubone. Ecco. E il vincitore avrà a disposizione esposizione in una serata in uno stabilimento dove, oltre a essere esposto il disegno o scritta che si tatuerò Fabrizio Corona, che è scritto così, non posso farci niente, potrà mettere balneare, forse, potrà mettere in mostra tutti i suoi lavori o idee e i suoi attributi, insomma. Ecco, il carrubone. Sì. Una serata tutta pagata, quindi importantissimo, e seguita nei minimi particolari, quindi hai capito? Oltre alla presenza di Corona ci saranno più di 1000 invitati. Oltre alla presenza ci saranno più di 1000 invitati. Ecco, per vincere, per dare visibilità alla tua arte e genialità. Ma pensa un po'. Questo disegno qui, secondo te, ma non so, lo metto su Facebook e poi vediamo se la gente... Tu mandalo qui, c'è anche l'indirizzo. Sì, ma voglio prima che i nostri fan... Qui non dice dove mandare, c'è il numero di telefono, possiamo darlo? Beh, diamolo. Allora, 320-2464-521 risponderanno quelli della Chinaglia Management. Ma Chinaglia non era un giocatore della Lazio? Sì, e oltretutto da pochi mesi anche lui, povero Chinaglia, dopo una vita, insomma, di eccessi e di grandi avventure. Beckenbauer, on the right, here's the cross in front, a great goal! Chinaglia! Oh, a tremendous goal by Giorgio, frustrated all night long. Chinaglia! È morto.